Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica. Da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero, questa domenica dedicata a degli anni curiosi, perché sono anni che io ho vissuto in un certo modo e per chi lo sa, sa come, e chi non lo sa, lo saprà tra poco, e che quindi sento appartenermi, e quindi non ho mai voluto tanto parlarne, e invece oggi ho deciso di farlo. Perché no? Parleremo degli anni 90. Gli anni 90 arrivano ovviamente dagli anni 80, per forza di cose. Ci sono tanti cambiamenti, tanti personaggi arrivano e tante cose cambiano. Cambia la televisione, cambiano le icone, cambia il modo di fare tante cose, e di questo parleremo proprio con voi, ovviamente con gli ascoltatori, ma con tanti ospiti, alcuni in studio e altri al telefono come sempre. Quindi oggi anni 90, protagonisti di questa puntata del riposo del guerriero. Vi ricordo però anche più tardi, 11.45 come sempre, il nostro Manè in 24 minuti, l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per la mostra di Venezia, ammesso che riusciate ad associare una canzone che vi faccio ascoltare al titolo di una delle opere di Manè, e la canzone è questa. Male, papà, e questa maschera ormai non serve più. Anche Caterina Caselli è cambiata, nel senso che da cantante è diventata importante imprenditrice e sempre legata al mondo della musica. Questa è la canzone alla quale dovete associare il titolo di un'opera di Manè. Si gioca più tardi alle 11.45 circa. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. I vostri messaggi invece per chiacchierare di questi anni 90 che magari vi mancano, o invece magari proprio non li sopportate e siete felici di essere in questo 2013 con tutte le sue novità, il numero è 349 238 6666. Per iniziare la puntata ho pensato a una canzone perché sono legato a questa canzone, non soltanto perché era proprio di quegli anni. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Questo è Jovanotti di Non M'annoio, perché era la sigla di un programma che conducevo su Italia 1, scritturava Uno Mania, è stato il primo programma condotto da me su Italia 1, prima di un'altra televisione, in diretta. Mi ricordo perfettamente quel primo giorno di diretta, quando mi hanno detto sei in onda, insomma la diretta ha il suo perché. Parliamo non solo di televisione, ma anche perché non c'era internet negli anni 90, cioè è arrivato in quegli anni, ma all'inizio non c'era, e quindi l'unico mezzo di informazione interattivo, tra virgolette, era la televisione. E quindi sicuramente è uno dei punti di partenza, anche se non l'unico. Luca Pollini, giornalista e scrittore, ciao Luca, bentornato. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Buona domenica, poi c'è Adriano Bonfanti. Buongiorno, ciao a tutti. Adriano è autore televisivo di tanti programmi, e Gigi Reggi, capostruttura. Ciao. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, perché, insomma, cominciamo dalla televisione proprio. Adriano, sì, cosa cominciamo con un programma che ancora oggi va in onda. Mea, c'è sempre uno che lui l'aveva già detto. Professore, ma sei scemo? Avete riconosciuta, questa è la voce del Gabibbo, perché parliamo di Striscia la Notizia, che nasce nel 1988 e poi... Nasce dalla voglia di Antonio Ricci di acquisire, lui diceva, le casalinghe di Columbro, perché voleva andare in onda dopo mamma, cos'era il gioco? Sì, il gioco che faceva Columbro, sai, su Canale 5. E voleva a tutti i costi acquisire quel pubblico lì. Però è nato su Italia 1, prime 30 puntate sperimentali con Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo. Contemporaneamente stavamo facendo Audience, io sono uno dei padri fondatori, nel senso che ero autore della prima striscia, perché eravamo lì, stavamo facendo Audience, avevo appena fatto Drive-In. con Antonio, col gruppo di Antonio. Tant'è vero che i due dei protagonisti di Drive-In si spostano a Striscia. Si spostano anche le telecamere, perché c'erano solo quelle. Allora si spostavano dallo studio di Audience con i cavi e si andavano di qua. Beppe Recchio era lo stesso regista, poi si spostava col carrello di là, quella c'era, il materiale era quello, si girava nello studio del Bravo Studio, dove sono suonati tanti programmi nella nostra storia. E sono nate le veline, tutta abbastanza strana come prima cosa, però era il telegiornale che nasceva da un altro famoso telegiornale di qualche anno prima, di Amuri e Verde News. Questo programma nasce nell'88, ma ha uno sviluppo fortissimo durante gli anni 90, perché segue tutto quello che succede, soprattutto in campo politico-giudiziario. Sappiamo che nel 90-92 così scatta Tangentopoli, che ci cambia, che è un po' lo tsunami della nostra storia, cambia molte cose, si sono rimesse tutte. Ma questa è un'altra cosa. Ma è sempre quella che dobbiamo c'è adesso, fermarci purtroppo. Agli anni 90. Però insomma, dagli 90 anni a quelli che hanno fatto. Però insomma, Striscia si sviluppa in quegli anni, cambiando continuamente conduttori, quindi comincia a diventare un po'. Però la formula un po' resta lo stesso. È sempre il telegiornale. È una questione scaramantica, perché Ricci è molto scaramantico su certe cose. Insomma, funziona, non lo cambia giusto la scena ogni tanto, ogni 10 anni. Però la scena si è spostata moltissimo dalle battute, dalla situazione iniziale, alle inchieste esterne. Quasi sicuramente le Iene nascono da Striscia, perché sono quella cosa lì, quelle inchieste che sta facendo le Iene le faceva Striscia. Ecco, vedremo un po' negli anni 90 che cosa hanno costruito o cosa hanno distrutto dagli anni 80 e a che cosa hanno portato oggi, perché veramente molto è cambiato. Il riposo del guerriero. Gli anni 90, fra televisione, cinema e quant'altro, oggi cercheremo un po' di illustrare le tante cose che sono accadute, anche i fatti. E allora, Adriano, perché Striscia Notizia ancora oggi regge, vive? Perché tanti programmi vedremo come sono stati radicalmente cancellati proprio da un'ondata di novità. Perché a differenza di tanti programmi che ci sono anche oggi, ma dal 2000 a oggi, poi spiegheremo perché, non è un format. E quindi è costruito da gente che sa scrivere i programmi e li adattano nel tempo. Se fosse rimasta quella dell'inizio, se dovessimo vedere la prima, io me la ricordo, non sarebbe durata 2 mesi. Invece la forza del gruppo di autori, Antonio Ricci è sempre stato uno che ha preferito 4 autori a 4 autisti, come usano molti invece. È così. Rido perché ci sono delle polemiche. Ma è una polemica così. No, non ce l'ho con nessuno. No, certo, cioè racconti i fatti. Però, infatti si racconta. Preferisce andare in giro con la scorta invece di con gli autori. E certo. Gli autori servono, non perché lo faccio se io. Poi gli autori guidassero anche, si fanno guidare spesso, ma. Però non sono, come si dice, fotocopiatori come sono oggi. Oggi sono della Rank Xerox, non sono degli autori, perché arrivano in forma dall'estero e li fanno. Invece allora, e ancora adesso, quel gruppo lì, che è un cartello boliviano diverso da tutti gli altri, è in continua evoluzione. Quindi il programma ha seguito la storia, tutto quello che succedeva, si è cambiato, i conduttori, la formula, le musiche, il modo di vestire le veline, qualsiasi cosa. Sono in grado di farlo perché sanno scriverlo, quindi è un programma che si è adattato nel tempo, come i telegiornali. È maturato e quindi per forza di cose si evolve. Seguono le notizie, non hanno uno schema fisso. Certo. Gigi Reggi, dalla TV degli anni 90 ad oggi, cos'è cambiato? Tutto è cambiato, no? Sì, è cambiato tutto, ma e qualcuno non si è adeguato, perché sono cambiati i modi di proporsi, sono cambiati i format sono diciamo la piaga anche attuale, perché costituiscono una ripetitività e uccidono la fantasia e il lavoro di quello degli autori, come diceva poco fa Adriano Bonfanti. Gli anni 90 erano esplosivi sotto certi punti di vista, perché seguivano la crisi e quindi davano la possibilità a imprenditori geniali come Berlusconi di esplodere proprio in quel periodo, e la sua forza è stata quella di circondarsi di personaggi parte venuti dalla Rai, parte dei quali erano proprio dei pesi morti, perché la Rai, avendo 13-14 mila dipendenti, aveva 1000, 2000, 3000 persone efficaci e le altre che erano lì per vari motivi, tranne quelli che riguardavano il mestiere. Noi eravamo in 200, 300, avevamo a disposizione 3 reti, e poco alla volta stavamo erodendo il grande potere della RAI fino a superarla. E io allora, quando avevo cominciato con la televisione, venivo dal giornalismo ed ero già a metà della mia vita. E quindi ho assorbito quello che erano i concetti di allora. I concetti di adesso hanno delle caratteristiche fortissime, come nel caso di X Factor. X Factor rappresenta la nuova televisione. Ecco, eppure è un format, però. È un format, ma è chiaro, non è che il format sia da buttare. Sì, non è il diavolo. Il format deve partire. Poi bisogna vedere cosa succede. Se fra 3 anni X Factor è ancora quello, cominciamo a dire, beh, che palle. Qualcosa non funziona. Però il diciamo che è un punto forte di oggi, del 2013. Perché nella presentazione visiva straordinaria, nella tecnica, nel ritmo e nei contenuti. Ci sono ancora degli elementi, dici, che riescono, certo, a, la novità ad avere la forza. Che sembra una sciocchezza, ma al suo valore è la giuria. Nel momento in cui la giuria prende vita, addirittura da superare nettamente quello che è la conduzione tradizionale, ecco che hai un punto di riferimento. Se tu oggi fai un programma di quel genere e hai in giuria Gerry Scotti e un altro personaggio di quel livello come Maria, ecco che tu hai un punto di partenza particolarmente forte. Se invece capisci, quindi vuol dire che dal 90 a oggi c'è stato uno stacco in quel senso. Nel 90 si è seminato molto, questo sì. Ecco, allora si è seminato molto e poi qualcosa è cresciuto e qualcosa forse un po' meno, cioè, non ha attecchito per niente, ha funzionato in quegli anni. Luca Pollini, tu avevi identificato degli elementi chiave, diciamo così, di quegli anni. Sì, gli anni 90 sono stati anni, secondo me, di transizione, di passaggio, cioè ci hanno lasciato non tantissimo, a differenza dei decenni precedenti, perché forse si era in attesa del 2000, cioè si aveva voglia che si iniziasse un nuovo secolo, quindi a differenza degli altri decenni, cioè noi ci ricordiamo oggetti come Rollerblade, sparito dalla circolazione, oppure lo scooter ha soppiantato il ciclomotore, ecco, quello sì, cioè non circolavano più a un certo punto i ciclomotori, erano stati soppiantati da questi scooter giapponesi. E poi cosa è successo? Sono cambiate parecchie cose. La televisione, mi aggancio, ha preso in effetti il potere. Lo possiamo vedere, qualsiasi cosa si produceva diventava un evento televisivo. Il Festival di Sanremo, che fino allora era il Festival della Musica Italiana, è stato completamente occupato dalla televisione. E, insomma, diciamo che serviva, alcune edizioni erano state appaltate per rilanciare carriere, tipo i Pooh, tipo Cocciante, Barbarossa, ricordo queste cose qua, e poi diciamo che erano tutti personaggi che con la musica leggera c'entravano ben poco, dal conduttore Fabio Fazio, che non so, ha chiamato Michael Gorbachev come ospite, o il fratello di Clinton a suonare il sax, insomma diciamo che con la musica non c'entrava assolutamente nulla, però tanto si facevano ascolti, l'importante era fare ascolti. L'altra cosa, mi riaggancio sempre alla televisione, era Italia 90, l'Italia ospita i campionati del mondo, e anche quelli dovevano diventare comunque un evento televisivo. E anche lì, di Italia 90, cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo dello spreco dei soldi, innanzitutto perché l'edizione costò 1248 miliardi di lire, e di cui solo 230 per costruire lo stadio delle Alpi, e tutto questo scandalo di Italia 90 ha portato poi a Tangentopoli, cioè a quello che era venuto fuori di Tangentopoli. Quindi comunque diciamo che è stato un decennio di passaggio, io lo chiamerei, e finito poi con la famosa burla del Millennium Bug, dove lì i computer non riuscivano, hanno fatto tanti soldi hanno fatto tanti soldi i tecnici del computer dicendo crolleranno gli aerei, i conti in succederà banca, di tutto, succederà perché di si tutto, azzererà tutto in realtà tutto. Beh, per qualcuno è successo davvero, qualche sì, software non era stato pensato così, ma non è stato che... esatto, lì sì, proprio, l'umanità si sentiva un passo dal disastro, capito? Vi faccio sentire un'altra sigla. Io me la ricordo molto bene, Mattia Nicoletti, non lo so quanto. Ciao Mattia, buona giornata, buona domenica. Ah, buongiorno a tutti, buona domenica. No, perché li presentavo solo per quello. Parlo quindi di Beverly Hills 90210, parliamo infatti di televisione, questa volta delle serie. Ci sono delle serie che ebbero un grandissimo successo e che oggi però non rivediamo, a parte qualcuna, no, sì, ce ne sono altre invece che Beverly Hills adesso non si rivede, però altre invece sì e sono ancora seguite. Mattia. Allora, secondo me il decennio dei 90 è stato importantissimo per le serie televisive americane, perché sono nate, cioè c'è stato il germe di tutta quella che è la grandissima televisione di oggi. Cioè Beverly Hills è il filone giovanilistico, quindi adesso abbiamo Gossip Girl, poi c'è 90210 che è il sequel di fatti Beverly Hills e tutti gli altri, piuttosto che ER, quindi Grey's Anatomy è figlio di ER, un medical drama. Oppure abbiamo Friends, quindi, che era il 94, e quindi tutta la nuova sitcom, che non è più quella delle risate in sottofondo ogni battuta. E poi abbiamo ad esempio Law and Order, che è il crime drama per eccellenza. 20 anni di Law and Order e oggi abbiamo ancora tutti gli spin-off, quindi SVU, Criminal Intent e via dicendo. Quindi è stato secondo me un decennio importantissimo. Ecco, cos'è cambiato, se è cambiato alla fine qualcosa dal punto di vista proprio delle serie televisive? Cioè tu dici oggi rispetto ai sì, 90? Se per esempio, non so, prima parlava di autorato di Adriano Bonfanti, no? Diceva in televisione c'era molto più autorato prima, oggi ce n'è meno, meno quella qualità. Invece mi pare che per quanto riguarda le serie quel punto di vista sia ancora vincente. Diciamo che le serie televisive oggi sono potere agli sceneggiatori, che secondo me è una cosa importantissima. Cioè oggi lo sceneggiatore in televisione più importante è il regista, che quasi non si sa neanche chi sia. Quindi quando c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori, ha bloccato la televisione, è stato un momento importantissimo. Per cui io faccio sempre una domanda, dico a chi ama il cinema, su 100 film di che film ricordate il regista e di che film ricordate lo sceneggiatore? Anche un esperto difficilmente si ricorda lo sceneggiatore. In televisione lo sceneggiatore è il re proprio, assoluto. Quindi vince ancora una volta l'autorato, meno male. Grazie Mattia Nicoletti, buona domenica. Grazie, buona domenica a voi. C'è la pubblicità e poi Adriano Bonfanti vorrà aggiungere una cosa da autore, giustamente, alla sua da dire. Il riposo del guerriero. Parliamo di anni 90, Adriano stavi per aggiungere una cosa. Volevo prima. Volevo intervenire, sì, no, l'ospite di prima, Nicoletti, sì, pare, esatto. Diceva che in America la televisione è in mano, perlomeno quella delle serie, è in mano agli sceneggiatori. Sì, agli sceneggiatori. Diciamo che da noi no, perché non ci sono proprio le serie, ma non ci sono neanche in televisione, perché se oggi gli autori televisivi decidessero di fare sciopero, qualcuno fa spallucce, manda lì la D'Urso. Non accadrebbe quello, non dici, gliene frega no. Niente a nessuno. Cioè, sì. Voltano lì delle parlanti, che ce ne sono tante in giro, bionde meno, e dicono delle cose e sono convinte che siano delle... Sono più importanti no, doppiatori. Quindi ma loro, no, sono oggi sono degli scalettatori, cioè, dei compagni di camerino che gli racconta la scaletta. Cioè, così, però poi nelle mani di queste... Se parliamo poi della televisione che... Non quella, diciamo, di prima serata. Vogliamo fare anche un po' di polemica, magari, dicendo... Perché gli anni 90 sono stati un po' particolari? Perché, come dicevamo prima, c'era la televisione che veniva inventata, non c'era stato ancora il brutto virus dei format, che non è magari brutto, perché i telefilm non sono format, sono un'altra cosa, come vedere dei film, non è un'altra cosa. Sto parlando di televisione quando parla di format, di varietà, di intrattenimento. Sì. E adesso ormai siamo tutti alla carta carbone, ma non c'è la creatività, ma manca, cioè, gli manca autori di oggi sono dei traduttori ma è la volontà della produzione insomma, chi arriva che cosa, no, cioè, tanto devi pagare i diritti all'estero, non sì, costano quindi, poco quindi comunque costa, non costano, esatto, poco, poi devi comunque farla, ma sono più sicuri del successo, no, perché non è vero. Vabbè, i fiaschi che ci sono, no, certo, abbiamo delle bottiglierie al posto delle TV oggi, perché siamo pieni di, non c'è uno, siamo disastrati da questa televisione. Però allora si era abituati a creare i programmi, se qualcosa non funzionava arrivavano quattro teste, li mettevano a posto, adattavano. Oggi questi qua che arrivano lì con i fogli A4 perché hanno fotocopiato i testi che arrivano dall'estero quando compri il format, non sanno dove mettere le mani, perché tu vedi uno show che va male e va male fino in fondo, perché non sanno come rimetterlo in piedi, come aggiungere qualcosa per farlo andare bene. Gli anni 90 erano tutti, anche quei pochi format che c'erano, scherzi a parte, che è nato quasi per sbaglio, perché venne fatto, reggila sa meglio la storia perché era presente, venne portato alla direzione di Canale 5 e non lo voleva il direttore. No, non lo voleva perché lo riteneva scarso. Presidente, allora. Io allora mi occupavo di speciali e si fece questo speciale prendendo parte dei filmati americani e parte invece o creati o comunque risolti, trovati in casa, in casa. E fu ovviamente un grandioso successo. Anche se andò, beh, andò su Italia 1, anticipava YouTube alla fine, sì. Perché quello era sì, YouTube degli anni 90, sì. No? Ed erano scherzi e non lo volevano perché lo ritenevano troppo costoso, inutile, e ci fu una sollevazione di massa di tutti invece, yeah, quelli presenti, sì, che videro, che credevano perché, era, perché videro, sì, che la televisione non erano degli yes men come ora. Scusa, è una storia parallela di Paperissima. Anche quello fu uno speciale di cui mi occupavo io personalmente, e che fece 41% e circa 14 milioni, 11 milioni di spettatori. E quello era appunto preso da americani e in aggiunta i girati italiani dal cinema, eccetera. Era un risarcimento danni perché si doveva fare la seconda edizione di Audience 2 che saltò. Sì. Allora, siccome la Cuccarini e vari compagni erano di sotto contratto, per farli lavorare fecero 6 speciali, io li feci tutte 6. Sì. Uno a Campione, uno sugli animali e l'ultimo della serie a giugno, primo di giugno, era Paperissimo. Era sugli errori, sugli errori. Sì, sì. Questa lettera da qualche parte in cui avevo indicato una serie di proposte per Antonio, perché Antonio era Ricci, quello che poteva essere Antonio Ricci, scusate, era il responsabile, quindi una specie di super produttore. Allora gli ho presentato queste serie che prevedevano appunto la presenza di Cuccarini e Columbro, oppure Ezio Greggio, che era sugli animali. Sugli animali. Comunque la prima fu di Ezio e Lorella perché erano degli, proprio come dire, gli avanzi. Sì, insomma, alla fine dai fegatelli, diciamo, sì, così, e nasce poi. Sì. Io volevo, c'è stato anche un programma per cambiare forse la modalità, che è diventato anche un modo di dire. Mamma Beba che dall'Etiopia dopo 8 anni è qui! Giuseppe! Allora, parliamo di un programma con una conduttrice che arriva dagli anni, dagli anni 60, 15. 70, dagli anni 70, sì. Beh, lei cominciò prima come attrice, per cui sì, alla fine degli anni 60. Ma in TV, sì, TV sì, nel 70 Colombelico, cioè, beh, quello sicuramente. Il insomma, tuca. Chi è che se la scorda? Diciamolo, che è la settantenne da sì, pochi giorni. Sì, da pochi giorni, Raffaella Carrà. E Caramba diventa anche un modo di dire, addirittura. Diventa intanto un modo di fare, perché è stata la televisione più copiata, tutti i vari, quelli che sono venuti dopo, sono tutti figli di Caramba, questi quattro che campano adesso di, sì, di grandi poste e cose del genere, o pomeriggi, sono tutti un po' parenti di questo programma, che era un format. La Carrà veniva da grossi fiaschi, che aveva fatto una cosa brutta in America, abbiamo fatto delle cose, e si era un po' rilanciata, e con questo raggiunse un grandissimo successo. Perché? Perché lei comunque è una... Non so se recitando o no, no, no, l'anima si vedeva, ce la metteva. Poi un'altra che arriva in redazione con gli autori al mattino, si fa tutto il giorno, conosce bene quello che sta dicendo. Beh, quella perché è un po' la vecchia scuola. Io ho intervistata recentemente, sì, Raffaella, sì, Carrà, e le diceva manca proprio questo. Cioè, sì, noi una volta... E quanto provavamo, cioè si lavorava veramente tanto, e lei è ancora abituata a quello. Ce n'è qualcuno insomma, ogni tanto, perché questa è la De Filippi, che è un'altra pazza, che sveglia di tutti di notte, 24 ore al giorno sul pezzo, però è giusto così. Essere I risultati sul si pezzo. Vedono. Eh sì, i risultati poi si vedono. Luca Pollini, Tangentopoli cosa ha fatto cambiare secondo te? Indirizzo a tanti. No, a parte quello. E non solo l'indirizzo, Stato. Paese. Tangentopoli... Insomma, ha fatto cambiare comunque una... Al di là, è facile dire la classe politica, beh, questo è scontato, ma ha fatto cambiare il pensiero della gente verso la classe dirigente. Perché Tangentopoli, attenzione, non ha colpito solo la classe politica, ma dei grandi vertici di grandi aziende anche. Ecco, e cosa, come si è, la gente come ha vissuto secondo te questo nella sua quotidianità? Con il comunque andando avanti con il sorriso oppure... Beh, il sorriso, sì, sorriso, diciamo, i primi anni col sorriso, ma semplicemente perché dicevano, ecco, adesso li hanno beccati. Perché, non nascondiamoci, tutti sapevano, al di là dei giornalisti, di quelli che dovevano sapere, diciamo, ma anche la gente comune sapeva dei soldi, dei politici corrotti, lo sapevano tutti, che per andare in comune l'assessore prendeva la tamazzetta, ma Milano e Italia. Sì, sì, vabbè. E allora diciamo che e lì, infatti io mi ricordo che ci fu il caso famoso dell'Indipendente, di Feltri, che iniziò a fare dei titoli cubitali volgari, senza parole, ci mancava solo la parolaccia, però diceva molto volgari, molto diretti, e infatti l'Indipendente ebbe successo, perché della sera finalmente li ha beccati, finalmente tocca loro, finalmente si viene fuori tutto sto marcio, e così è stato. Poi c'è stato questo grande vuoto comunque di potere, perché diciamo che lì c'è stato... Non so se vi ricordate Mariotto Segni, che per un attimo aveva in mano il paese, però non è riuscito a prenderlo, e poi è entrato il manager Silvio Berlusconi. Da lì nel 94 è nata tutta un'altra politica, tutta un'altra classe dirigente. Sai cos'è? È uscito il marcio ed è rientrato, perché noi siamo i classici italiani che nel Medioevo zappano e vengono a passare gli spagnoli, i francesi, cioè comunque li hanno ribeccati tutti di nuovo, li ribeccheranno fra un po' di anni, cioè cambia tutto tranne che la politica, così. Sì, però secondo me qualcosa è cambiato, al di là della politica, vi do ragione. No, guardate che quegli anni lì, cioè dei grandi vertici di grandi aziende proprio fatti fuori. Sì, ma adesso si suicidano invece, oppure si mettono in politica, perché sì, non c'è una grande differenza. Dicevo, all'interno delle aziende, cioè, allora prendete l'Enimont. L'Enimont era un'azienda gigantesca, che tutto venne fuori che Gardini molti di quei soldi lì non li investì in Coppa America, cioè, nel senso, non è che se li mise, non aveva bisogno evidentemente di soldi, però continuava a costruire parchi per fare sta Coppa America. Però molte aziende adesso hanno dei vertici meno, alcune, certo, cioè, ancora il caso dell'Ilva, assolutamente delegati. Sì, però no, adesso diciamo, la classe politica, hai ragione, cioè è un'onda, cresce, scende, sale, scende, sale, scende. Quindi, ecco, il pubblico in realtà, poi cosa, come dicevi tu Luca, forse viveva però col sorriso, cioè forse l'atteggiamento era li hanno beccati, sì, esatto. E quindi c'era la fiducia, la voglia di andare avanti, meglio ovviamente, cioè c'era più speranza in questo senso. E c'erano anche delle icone che oggi non ci sono più, che sono le modelle, che diventarono rappresentanti di un mondo dorato, un mondo bello, piacevole, che forse racconta proprio come erano quegli anni. Piero Piazzi, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Piero Piazzi è direttore di un'agenzia molto importante, si chiama Women Management, un'agenzia di moda che si occupa esclusivamente di modelle, che non esiste solo a Milano ma anche a Parigi e a New York. Piero, negli anni 90 hai cominciato, no, a occuparti, tu facevi già il modello prima, però negli anni 90... Modello negli anni 80, sì, poi negli anni 90 iniziai con Beatrice, che allora era un'agenzia conosciuta per l'uomo, non per, sì, la donna. E la prima modella di cui mi occupai, che iniziava allora, diventò Marpessa, era già Marpessa, ma diventò Marpessa nel senso la modella conosciuta. Per cui devo dire, ho visto gli anni belli, poi ho diretto per 10 anni da Riccardo Gae, negli anni di Naomi, Carla Bruni, Monica Bellucci, Linda Evangelista e tutte loro. Ecco, oggi è tutto un po' diverso, non c'è più niente di allora, fortunatamente e sfortunatamente. Anche. Ecco, senti Piero, infatti io adesso così dovendo, non ho capito se sono io fuori dal mondo, e può essere benissimo, però è vero che quei nomi, insomma, ce li ricordiamo tutti, insomma, tu li hai citati, Claudia Schiffer, appunto Carla Bruni, ovviamente, poi oggi più di ieri forse per la persona che ha anche sposato, e Cindy Crawford, Valeria Mazza, mi ricordo, ecco, tutti nomi che vogliono dire qualcosa, erano icone. Oggi onestamente i nomi di grandi modelle si ricordano un po' meno. Non si ricorda per niente, ecco. Molto meno, diciamo, si ricordano le italiane, si ricordano sicuramente Giselle, si ricorda qualche modella. Io ho pensato molto in questi 28 anni che ho fatto questo lavoro, e vivendo tutti i momenti di economici, culturali e di conseguenza lavorativi. Ho sì. pensato che innanzitutto allora non c'erano nuove icone nel campo cinematografico, per cui e anche la musica non offriva tanti personaggi, vedi Lana Del Rey piuttosto che Adele, tanti miti che invece oggi propone sia la musica che il cinema, per cui la moda in quel momento lì, le ragazze, l'immaginario anche del collettivo era rivolto verso le modelle. E poi non c'era la crisi ha portato sicuramente a un cambiamento totale e a un cambio totale di ragazze. Ogni sei mesi ci sono ragazze nuove che iniziano e spariscono, le carriere una volta erano estremamente lunghe e si ricordavano. Oggi da un punto di vista anche, non so, dei cachet per esempio, sono molto diminuiti. Sono completamente diversi, sicuramente. Diciamo che quando uno stilista vuole una top model, ad esempio in questi giorni ci sono le sfilate uomo a Milano, sì, e proprio esatto. Oggi ad esempio Philip Lane ha deciso di portare una che oggi è una modella estremamente conosciuta, che è Isabelle Fontana, una brasiliana che aprirà la sfilata, l'ha pagata una certa cifra proprio perché voleva un'icona di oggi. Però ecco, sono modelle riconoscibilissime da quelli che sono gli addetti ai lavori e da quello che è un pubblico comunque che attento al mondo della moda, diciamo, moda, sì. Ma non dalla signora. Ecco, invece noi parliamo di personaggi, di modelle che sono conosciute da chiunque, ecco. L'ultima domanda: che cosa ti manca di quel decennio? Ma mi mancano delle cose, ma non me ne mancano altre. Mi manca il divertimento, ecco. La crisi con la crisi non ci si diverte più. Non è tanto un fattore economico, nel senso che si guadagna sicuramente. Ma di atmosfera, tu dici? No, di atmosfera. È un'atmosfera. La moda allora, poi Milano era veramente una grande capitale della moda. Oggi si è spento tutto e purtroppo Parigi ci ha sicuramente sorpassato, nel senso che è stato dato molto spazio ai giovani. Vedi anche gli italiani come sono stati valorizzati in Francia, a capo di Givenchy c'è Riccardo Tisci che è un italiano, ecco, c'è una serie di cose per cui mi manca il divertimento, che non era il divertimento che allora fece vedere Vanzina nel film Sotto il vestito niente, ecco, non è che tutto il mondo della moda era visto come un mondo di sfacello totale, di divertimento. No, era anche un divertimento semplice, l'atmosfera comunque era sorridente, quindi ci stava bene. Certo. Ci si divertiva, certo. C'era comunque era un mondo che l'Italia apporta, ma ha portato nel passato tantissimo e spero che nel futuro riusciremo a risollevarci da questa crisi, che è importante il fattore moda, uno lo vede con leggerezza, però se noi vediamo anche nella nostra città, Milano, quanti negozi chiudono, non è bello e non è divertente, ecco, è tutto alquanto triste e molto più contenuto. Però oggi, ecco, questa sobrietà penso che sia dovuta, un atto dovuto nei confronti di tutti quanti, soprattutto visto il momento economico che viviamo, ecco. Grazie Piero Piazza e buona domenica ancora. Grazie anche a voi, grazie mille. Il riposo del guerriero. Poi chiederò a tutti gli ospiti qua presenti di pensare a un aggettivo che possa descrivere gli anni 90, quindi poi pensateci. E mi fa anche un po' sorridere il fatto che molti ascoltatori stiano confondendo gli anni 80 con gli anni 90, cioè attribuiscono gli anni 90 a cose che in realtà facevano parte degli anni 80. Però da lì si parte, perché ad esempio Eva scrive: a dire il vero, molti programmi che esistono da anni provengono dalle rubriche di Portobello, e quindi è così, tutti stanno affermando, sì, è proprio così. Volte si sa. Ogni cabina è diventata un palinsesto. Caramba, che sorpresa! È una di Caramba, sì, è un programma straniero, arrivava dall'estero, però Portobello, i vari incontri, Mariti, dove sei, quelle cose esatto. Lì. Sono tutti figli di Portobello. Ecco, tornando alla moda invece, voi avete anche scritto e prodotto alcuni e curato alcuni sì. programmi dedicati. Piazza di Spagna era uno sì. di questi. Perché la moda funzionava in televisione? La moda funzionò tantissimo. Prima di noi siamo stati reggi e capostruttura, io ero l'autore di Donna sotto le stelle, quello in Piazza di Spagna, sì. La scalinata, e poi tanti altri programmi a Portofino, ma quello lì era quello più importante, intanto perché andava in Mondovisione. Ed era una vetrina pazzesca per tutti gli stilisti che c'erano, moda milanese, moda e quindi italiana. Aiutava anche la moda aiutava italiana. Infatti allora gli stilisti intervenivano molto nel pagare un programma che era, che era così costoso, sì, ecco. Perché era costosissimo, sì. C'era tutte le top model, solo per Versace le avevi tutte, le Naomi, la Schiffer, tutte insieme le pagavano loro. Oggi portano i soldi alle Cayman, però invece, ecco, perché allora oggi non potrebbe funzionare un programma, perché l'alta moda non esiste più. Non esistono più gli stilisti, ma esistono le aziende. Ci sono ancora qualcuno, ancora qualche nome importante, c'è Armani, però loro molto all'estero, sono un po' internazionali, sono molto GM, sono un po' dappertutto. Lì c'era l'internazionalità, arrivava a conoscere la moda italiana su un monumento italiano, e c'era una grande cura della propria immagine, della propria... Adesso aprono molto all'estero, preferiscono, perché in Italia non lo compra più nessuno, quelle robe che costano troppo, non è il momento. C'è stato... sono arrivati tantissimi marchi nuovi per i giovani, soprattutto li conosciamo quelli che, sì, insomma, più, che è un altro poco. Tipo di moda, diciamo, è cambiato così, sì, però l'alta moda non, c'è, non la fa più non nessuno, c'è, cioè la fa, fanno ma non, per Dubai non, sì, certo per scusami è un po' come quello che, sì, è successo in televisione, cioè c'è il frazionamento. Non ci sono più poche firme, ce ne sono 10 volte tante, come in televisione ci sono 250 reti. Ecco, questo è un po' e per emergere occorre veramente fare qualcosa di speciale. Una piccola parentesi: tu fai qualcosa di speciale oggi quando sei Fiorello, quando fai un certo tipo di musica, quando fai certe fiction e quando hai lo sport. Tu hai questi punti di riferimento fondamentale che resistono nel tempo. Mentre invece, chiaramente, non puoi pensare di fare risultati altrove con la stessa intensità. Ecco, vediamo cosa è successo anche in un altro ambiente. Pia Capelli, ciao, buona domenica, ben ritrovata. Ciao Stefano. Ciao, nostra giornalista esperta anche di arte contemporanea, per capire l'arte che fine ha fatto negli anni 90. Cioè, c'è qualcosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, oppure come qui si sta dicendo, gli anni 90 sono un po' un periodo di transizione verso gli anni 2000. L'arte non ha fatto una fine, ma come dire, ha segnato un inizio negli anni 90, direi. È stato un decennio così intenso da essere considerato un po' il decennio lungo dell'arte, così lungo che qualcuno pensa che ci siamo ancora dentro, cioè che stiamo ancora facendo i conti oggi con tutto quello che è successo nel mondo dell'arte negli anni 90. Proprio la nostra idea di arte contemporanea arriva da lì. Due personaggi su tutti che hanno debuttato nel 91 entrambi, uno in Italia e uno in Inghilterra, Maurizio Cattelan e Damien Hirst, che sono due personaggi che hanno proprio ribaltato i paradigmi, per cui la nostra idea di artista contemporaneo è cambiata lì, la nostra idea di galleria d'arte, la nostra idea di museo viene proprio da lì, per cui sono successe molte cose. È un decennio che, come avete già detto, si apre sotto il segno di una crisi. Le crisi per l'arte, le crisi politiche, finanziarie per l'arte sono sempre molto fertili. È stato un decennio in cui l'arte si è globalizzata, per usare una parola che oggi è inflazionata, ma che all'epoca invece era necessaria, per cui da un mondo artistico, come dire, Stati Uniti centrico, si è passati ad includere nella scena dell'arte contemporanea una serie di pratiche, ma anche di personaggi che geograficamente venivano dall'altrove, quindi dall'Africa, dal Medio Oriente, dalla Latino America, da Shirin Neshat, Inka Shonibare, Doris Salcedo, tutti i personaggi che oggi sono dei grandi e che, come dire, sono lì nel nostro panorama, diamo scontati, e invece all'epoca erano ancora, faticavano per entrare. Oltre alla globalizzazione, le altre grosse questioni erano il lavoro sull'identità, il lavoro sul corpo, e infatti molta dell'arte che ci fa pensare, che ci ha fatto anche un po' sdegnare, quella di cui oggi si discute ancora in taxi, alle cene, eccetera, viene proprio dagli anni 90, e soprattutto viene da un gruppetto che ha cambiato per sempre la scena dell'arte, che è il gruppetto degli Young British Artists, che sono per l'appunto tutti gli amici e colleghi di Damien Hirst, che hanno cominciato a esporre all'inizio degli anni 90 e che dalla mostra Frieze, alla mostra Sensation, nella seconda metà di quegli anni, hanno proprio rivoluzionato tutto, proprio nel modo di fare arte. Hanno dato un'energia così forte anche a tutto il resto d'Europa e al mercato, da cambiare anche proprio i luoghi dove si andava a vedere l'arte. Per cui nel 93, per esempio, nasce la galleria White Cube a Londra, che segna un nuovo paradigma per la galleria. La maggior parte delle gallerie che visitiamo oggi sono ancora fatte a White Cube, quindi a cubo bianco. E tutta questa grande energia porta addirittura a far pensare per così dire, i potenti, che forse c'è bisogno di posti nuovi per l'arte contemporanea. E nel 2000 apre la Tate Modern. Questo significa che gli anni 90 hanno fatto dei grandissimi cambiamenti, sono stati anche anni da un certo punto di vista rivoluzionari, nel senso che l'artista ha potuto diventare qualcosa di diverso. Gli artisti degli anni 90, a partire da Cappellano e da Hearst, hanno potuto essere insieme sovversivi ma imprenditoriali, quindi molto consapevoli della loro figura, molto attenti anche al mercato. E infatti il mercato dell'arte negli anni 90 è partito in un momento difficile e poi è andato molto bene fino a raggiungere delle quotazioni pazzesche, quelle che tutti conosciamo e abbiamo dibattuto, e addirittura le case d'asta adesso hanno creato, sapete che le case d'asta procedono per categorie, no? Quindi c'è questa categoria grande che si chiama post-war and contemporary, quindi dal dopoguerra al contemporaneo. Ecco, dentro questa categoria è stata creata una sottocategoria, per esempio da Christie's l'anno scorso, solo sull'arte dagli anni 90 a oggi. Questo per dirvi che tipo di cambio di paradigma c'è stato. E poi l'arte è diventata, per usare una parola ancora peggiore, super cool degli anni 90, per cui tutti hanno cominciato ad andare a vedere le mostre arte contemporanea, le grandi fiere, sono nate nuove riviste, è diventata anche un fenomeno di costume, una sorta di rinascimento alla fine, ecco, possiamo dire così. Il rinascimento è una parola grossa guardando però... gli artisti, però diciamo che tanta energia, ecco, e di questo stiamo ancora godendo oggi sicuramente. Grazie Pia Capelli, ti leggiamo il Domenicale del Sole 24 Ore anche, buona domenica. Grazie, ciao. Prendo in prestito un messaggio, non si firma, dice: ma non si parla di quelli della notte, è un programma rivoluzionario, si tirava fino a oltre mezzanotte, il giorno dopo si ripetevano le battute. È vero, ma siamo nel 1985, quindi non siamo negli anni 90. Vi faccio sentire 20 secondi di sigla, perché poi dopo il GR partiremo da lì. Ma la sai, raccontacela dai, che ci salvi la serata. Tanto è tardi per uscire, ma è troppo presto per dormire. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando degli anni 90 in questa puntata del Riposo del Guerriero. Ancora buona domenica. Stefano Gallarini, sorrido un po' perché quando prima è intervenuta Pia Capelli ha raccontato negli anni 90 come ci fossero state tante novità per quanto riguarda l'arte contemporanea, i miei ospiti qui mi guardavano dicendo: ah davvero? Pensavamo che in realtà, perché non, se non fai parte, cioè se non conosci quelle cose, appunto forse un po' sfuggono. Poi in realtà abbiamo scoperto che sono stati anni, è stato un decennio veramente molto importante. Ancora buona domenica a Adriano Bonfanti, Gigi Reggi, Luca Pollini, che sono i miei ospiti. Si voleva ripartire dalle risate. Io avevo fatto sentire un momento di La Sai l'ultima, perché anche il modo di ridere cambia, Adriano? Sì, cambia. Venivamo dal... allora, salto indietro piccolissimo. Sì. Anni 80, Drive-In cambia il mondo della risata, porta una comicità molto più veloce, con la stessa gli stessi tempi degli spot pubblicitari, per cui si mescolava, è una televisione commerciale, è il muro di Berlino che viene abbattuto sulla comicità, e nascono nuovi programmi. Noi quell'anno, nel 92, abbiamo l'incarico di creare questo programma strano. Ce lo incaricò quello che è il buon compagno di Renzi adesso, cioè Giorgio Gori, che era il direttore di Canale 5. Ci dice: volevamo un programma sulle barzellette, che è una cosa molto strana, perché le barzellette sono una cosa da come se viaggiatori da caserma, dovevamo portarli in prima serata. E abbiamo messo in piedi questo varietà con i barzellette in gara, che ha lanciato tantissima gente, come uno su tutti, Brignano, che già nel 92 e 93 era il nostro barzellettiere in gara, anche lui come altri, e tanti altri comici. La barzelletta rappresentava un po' questa nuova comicità, veloce. C'era un minuto per raccontarle, non più i monologhi di 15 minuti di Walter Chiari degli anni 60-70. Sì. È una nuova possibilità di raccontare. Ecco, io ho avuto modo poi di fare una puntata tutta invece sul cabaret, quello che oggi chiamiamo, sì, cabaret, che non è cabaret, sì, però ormai si chiama così. C'è il derby qui di fronte. Esatto, perché non è più derby, ma è rimasta solo la scritta, anzi quello che è rimasto è avanzato, e che però insomma ha prodotto anche molti comici televisivi, che poi in serata non funzionano perché più di 5 minuti. Perché non hanno repertorio, prima venivano dal... dall'autorato, ancora una volta. Dall'autorato e dal far tante televisioni private di quelle degli anni 60-80, con tanti pezzi. Lì arrivavano, avevano 30 secondi di tempo i primi programmi comici, facciamo cabaret, e avevano un successo immediato, poi andavano a fare le serate e non avevano niente da dire dopo i 5 minuti. Per cui si è dovuto ricominciare da capo. Scusa, ti voglio ricordare che a Premiatissima alcuni tra gli autori erano tale Giorgio Faletti e Zuzzurro Gaspari, esatto, erano lì come autori. Ancora una volta si parla di autorato, no? Quello autori che c'era nella televisione dell'inizio. Diciamo fin dall'inizio chi la scrive, chi la fa, chi la impasta, senza lo chef non porta in tavola niente. Anni 90 sono anche musica. Allora, gli anni 90 sono importanti indubbiamente per la dance, anche c'è il fenomeno Corona, questo gruppo che nasce in quegli anni, che ha grande successo, gruppo nato in Italia, con una cantante brasiliana che in realtà prestava solo il volto all'inizio, poi le voci erano diverse, poi adesso lei canta, adesso non sto raccontando tutta la storia, ma Luca Paolini, che è un esperto anche di musica, voleva ricordare delle icone degli anni 90, anche certo, tra cui gli 883. Questi sicuramente. Max Pezzali è uscito con l'album anche 20 anni. Questi sicuramente, gli 883 usciti dal cilindro di Claudio Cecchetto, ennesimo talent scout che non ne sbagliava uno in quegli anni, e niente, produsse questo duo che cosa avevano? Innanzitutto le copertine disegnate da Sergio Papalettere, che se vi ricordate le prime tre copertine erano dei fumetti. Sì. Poi questa facilità dei testi, i testi arrivavano immediati e parlavano di storie di provincia, quello che poi Pezzali è, perché lui l'ha sempre ammesso, ha detto io non sono assolutamente un prodotto cittadino, anzi io vengo dalla provincia del Pavese, sì, e quindi le storie da bar, le storie... E gli 883 arrivarono con questo era il secondo album Nord, Sud, Ovest, Est, con Hanno ucciso l'uomo ragno, fu il hit, diciamo, con il quale vinsero il Festival Bar, e da lì in poi fu una scalata a successo. E con questa cosa carina del duo che poi diventa un singolo, perché poi Mauro Repetto, che era sì, il cambia strada decide di buttarsi al cinema, insomma non va, però diventano un fenomeno, però anche... diventano veramente un fenomeno. E prima dicevate dei comici, vorrei ricordare appunto nel campo musicale Claudio Bisio, che nel 92 uscì con Rapput, che era un suo pezzo di uno spettacolo degli anni 80, dove raccontava di questa vacanza in Grecia della sua fidanzata che andava, che si sposava, che lo tradiva col pescatore greco, eccetera eccetera, e poi decise con l'aiuto di Elio e le storie tese di metterlo in musica. Anche lì fu una cosa, fortunatamente Claudio poi non replicò, insomma decise che il suo mestiere era un altro, però vediamo anche quale. E poi dall'altra c'è un Lucio Dalla con Attenti al Lupo, che diciamo che cambia un po' genere rispetto, e poi purtroppo ci sono degli addii. Gli anni 90 sono stati abbastanza pesanti per la musica italiana, anche per quella straniera, perché ricordiamo Freddie Mercury e Frank Sinatra, giusto per citarne appena due, però ci lasciarono Augusto D'Aoglio, Domenico Modugno, Mia Martini e poi Lucio Battisti e Fabrizio De André. Chicco Giuliani, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, ciao a tutti, a te e ai tuoi ospiti. Allora Chicco, hai 2 minuti di tempo, ma so che tu riesci, siamo in ritardo oggi. Ci proviamo. Ecco, perché c'è il mondo della dance, anche della musica dance degli anni 90, che a un certo punto cambia molto rispetto agli anni 80, cioè il decennio che la precede. Sì, perché in realtà fa una cosa di cui noi vediamo gli effetti in realtà ai giorni nostri, cioè il fenomeno dei DJ superstar, basti pensare... proprio ai giorni nostri, che ne so, a David Guetta, che è veramente forse più grande, più importante di una rockstar, giusto per citarne uno. In realtà il DJ produttore è una figura che si sviluppa negli anni 90 moltissimo in Italia, tra l'altro, che sono stati appunto l'Italia è stata appunto un paese di grande riferimento per la dance nel mondo negli anni 90, in quel decennio, perché molti successi proprio delle classifiche internazionali sono partiti dall'Italia. Basti ricordare il produttore reggiano Daniele Davoli, che c'era dietro al progetto Black Box. Ride on Time fu una hit veramente pazzesca in tutto il mondo, ed è datata 89, quindi diciamo idealmente l'inizio della dance italiana è proprio con questa hit e con questa formazione. Poi insomma un sacco di altri nomi, tu giustamente hai citato Corona, molti progetti che avevano appunto un frontman di facciata, però in realtà dietro ai quali ci c'eravano, ecco, grandi Tico, produttori. Queste realtà oggi ci sono ancora o non più? Cioè, ebbero realtà italiane che ebbero grande peso anche all'estero. Oggi funziona, sì, ancora così o assolutamente, sì, ce lo siamo dimenticati? Funziona così, appunto, come dicevo prima, come figura e come concetto, perché appunto il DJ producer è veramente la superstar di questi anni e in realtà nasce proprio negli anni 90, un po' meno per l'Italia. Volendo fare un collegamento anche geografico, il progetto Black Box nasceva a Reggio Emilia, appunto a cavallo dell'89, tra l'89 e il 90, e in realtà questo decennio si chiude idealmente nel 2000 con un altro grande successo di un DJ producer italiano che adesso è una star mondiale, cioè Benny Benassi, che arriva proprio da Reggio Emilia, quindi paradossalmente, curiosamente, la stessa città. Poi tanti altri nomi, insomma, gli anni 90 ci hanno portato anche un filone di dance decisamente tamarra, credo che io e te di questo potremmo stare ecco, a parlarne ore, ecco, credo, no? Infatti non ne parliamo affatto, e do invece il traffico. Grazie Chico Giuliani, che ciao, si è svegliato apposta perché ha finito serata essendo oltre conduttore radiofonico ma anche DJ, e ha finito serata ieri molto presto stamattina. Il riposo del guerriero. Ma che barzellette, scrivono Paolo Rossi, Aldo Giovanni e Giacomo, Albanese, Littizzetto o Avanzo, volete parlarne? Beh, aspetta, che c'è Adriano, cioè Adriano deve dire. Littizzetto fece il casting per la Sai l'ultima nel 92, il suo primo casting, e venne lì con il famoso Minchia Sabri prima ancora di Serito Lindo, per cui passò anche lei dalla famosa... Da lì, ecco, da lì. Perché poi da lì ci sono le evoluzioni, adesso noi abbiamo ricordato delle cose, ce ne sarebbero moltissime, ovviamente, sì, bisogna ripescare, io poi mi dimentico, perché io del passato, almeno da quel punto di vista, non ricordo. E, qualcuno scrive, Matteo, negli anni 90 hanno dato l'ingresso massiccio di film hard americani di qualità nel mercato italiano, Madonna, senza considerare che sono già stati gli anni della grande diffusione dei PC e dei telefoni cellulari, sicuramente. Non abbiamo parlato, però volevo ricordare solo una cosa: sono stati gli anni, per esempio, del Tamagotchi, che era questo animaletto, questo extraterrestre elettronico. Tu stai facendo un gesto dell'anno perché un faceva pulcino. Pipì. Era un pulcino. No? Allora, tutti a scrivere: un pulcino non era un pulcino, è un extraterrestre. Extraterrestre che andava accudito. Allevato, bisogna pulire anche, cioè, i bisogni, tra l'altro, se non si ammalava. Sì, e poi morì, poteva morire, lì c'è stata una grossa polemica. Poi dopo arrivò invece Furby, che due anni dopo arrivò Furby, che era questo oggetto peloso, somigliava a un Gremlins, no, sì, interagiva con il proprietario ed era peloso, molto, molto curioso, divertente, e tra l'altro ne è nata una versione 2013, cioè l'anno scorso è stata fatta una versione da pochissimo anche in Italia, che riprende un po' proprio il Furby degli anni 90. Politici. No, si chiama sempre Furby. No, è con la Y finale. E la cosa curiosa è che è stato ripescato proprio il Furby iniziale, perché abbia un grande successo, credo che detto una cosa con 40 milioni di pezzi in tutto il mondo. E poi Aibo, il cane elettronico di Sony, che non venne più prodotto perché costava troppo. Ecco, per dire che erano gli anni dove la tecnologia cercava di entrare nelle case anche in modo diverso, a parte telefonini e PC, sicuramente. E per chiudere, io farei un giro con voi, partiamo da Luca Pollini, che con una definizione degli anni 90, se ce l'hai. Impalpabili, per me sono stati anni impalpabili, sì, al di là del punto, oggi ho scoperto che per l'arte sono stati anni fondamentali, però secondo me almeno su alcune cose non hanno lasciato il segno, e diciamo appunto che ha chiuso gli anni 90 con, tornando alla musica, il super caffone di Appiotta, e già quello insomma ci ha fatto capire dove poi si è andati a finire negli anni 2000, nel decennio del 2000. Da poco, fra l'altro, c'è il nuovo libro di Luca Pollini, scritto La musica leggera anni di piombo, per cui torniamo un po' indietro nel tempo, parecchio, ovviamente, sì, parecchio. e così mi permetto, anche se non anni di piombo, volevo leggere il messaggio di Graziella, dice: negli anni 90 voglio ricordare anche le morti di Falcone, Borsellino, gli uomini della donna donna loro scorte, ovviamente questo accadde ed è uno del, una delle, dei tanti fatti che accadono in quegli anni. Adriano Bonfanti, chiudiamo a Gigi, scusami. Io volevo continuare quello che stavi dicendo, sì. Quindi quando tu prima volevi chiedermi un aggettivo per definire, esatto. Allora io ne avrei una ventina, quindi vuol dire che non sono in grado di esprimermi, perché da un punto di vista ansioso e dall'altro colorato. Cioè è stata un'esplosione en attendant, direbbero le vecchie signore francesi, aspettando il 2000, questa roba strana. Come diceva Luca all'inizio, no? Esatto, ha detto bene, mi è venuto in mente proprio questa attesa. E adesso cosa faremo? E intanto facevamo. Per quanto mi riguarda personalmente, con la televisione è stata un'esplosione negli anni 90. Un'esplosione di, non so se tu ricordi, la diretta. Sì. La diretta di noi poveracci, con quella che era una prerogativa della RAI, fin dal bianco e nero, sì. Invece noi aspettavamo ed è stato anni di grande entusiasmo per noi, punto. E la diretta insegna a lavorare, quindi tanto colore, televisione, sì. E radio sicuramente. Eccoci, Adriano, qua. Chiudiamo con il Grande Fratello I miei aggettivi sono poco creativi, nel senso sono creativi, sì. Sono aggreganti, rinascenti, sì. Per noi gli anni 90 potevano essere veramente una nascita per qualcosa, poi si infrange contro un muro che nel 2000 parte il Grande Fratello, sì. Che è il programma che sconvolge la televisione, che la cambia tutta, perché porta questi quattro disgraziati che poi faranno le serate con l'Ele Mora a raccontarsi, a mostrare il peggio di loro, però è un grandissimo evento. Io l'ho amato molto agli inizi, Grande Fratello, adesso proprio non lo vedrei più, però è stato un grande, ma cambia tutta la televisione, toglie tutta la costruzione, la scaletta, gli autori, le scene, tutto, e riporta questa, non dico miseria, però insomma realtà, forse reality, realtà finta peraltro, e ci cambia tutto quanto, e siamo ancora lì con le macerie che stiamo ritirando adesso su. Tutto talent reale, che è tutto, torniamo così, al super caffone di Erpiotto, sì. Torniamo lì, però siamo proprio sul Grande Fratello, diciamo, si chiude ai poracci. Sì, sì. Grazie Adriano Bonfanti, grazie Gigi Reci, grazie Luca Pollini, grazie. E andiamo avanti con il Riposo del Guerriero, perché c'è un momento della nostra Francesca Dragotto, la nostra glottologa, che racconta proprio gli anni 90 dal punto di vista della lingua italiana. Senti chi parla. Devo dire che la sigla di Senti chi parla è particolarmente azzeccata in questo caso. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica, la nostra glottologa. Buona domenica, buongiorno a tutti. Perché in questo testo farlocco c'è un misto di finto inglese, no? E questa lingua un po' che non vuol dire niente, che Celentano aveva usato, perché spesso quando si canta e si prova un testo che non esiste, si mette un inglese finto. Ed è nato questa lingua, questo Prison Cornelius Nancusol. Perché l'inglese negli anni 90 entra in qualche modo nelle nostre case in modo preponderante. Beh sì, oggi infatti a proposito di anni 90 parleremo di mele e di finestre, anzi di mela e di finestre, perché ripercorrendo con la mente quel decennio appare impossibile non pensare alla diffusione massiccia del PC, del computer nelle nostre case, una diffusione che si è tirata dietro la diffusione di un numero enorme di termini, quindi termini che nel caso della nostra lingua, l'italiano, sono stati a volte tradotti, a volte sono stati invece lasciati così com'erano, quindi sono stati presi in prestito, a volte tradotti in seconda generazione, quindi presi in prestito e poi però integrati. Quando dico integrati mi riferisco al fatto che hanno proliferato, quindi hanno fatto da base per dei termini che non sono più inglesi ma sono italiani a tutti gli effetti. Ecco, per esempio i francesi l'hanno tradotto con logiciel, quello che in italiano ancora si chiama software, cioè i programmi per il computer. Sì, si tratta di un termine che inizia a diffondere in occasione del lancio, si può dire in pompa magna, di Windows 95. Ho ritrovato un articolo del Corriere dei primi giorni di settembre del 95, il cui titolo a pagina 3 recitava: arriva Windows 95, negozi aperti fino alle 3 di notte, la notte delle finestre. E nel corso dell'articolo appunto si parla di software, un termine che in inglese comincia a circolare intorno alla metà dell'Ottocento per indicare un oggetto leggero. Softwares, in principio scritto staccato in due parole, erano infatti i tessuti di lana o di cotone e poi per estensione i beni di consumo relativamente reperibili. Il termine si forma per analogia, quindi ricalca hardware ferramenta, minutaglia di metallo, una cosa più pesante rispetto al soft che è leggero. Un termine che troviamo riferito all'ambito del computer, dell'informatica, a partire dagli anni 60, naturalmente del Novecento. Questa sezione ovviamente finisce per fagocitare quella precedente, quella originaria riferita alla ferramenta, che però comunque rimane. Ora, una curiosità per chi ha interesse per la storia della lingua, in questo caso però per la lingua inglese: l'elemento where, che è alla base tanto di software che di hardware, era utilizzato a metà Settecento anche come sostituto eufemistico per la cosa, cioè per non nominare l'organo sessuale femminile. Tra i tanti termini a disposizione c'era appunto il nostro where, che oggi appunto conosciamo in italiano grazie all'informatica. Ecco, personal computer o calcolatore elettronico? In entrambi i casi alla base c'è un sasso, perché alla base di calcolatore, quindi alla base di calcolare, di calcolo, c'è una parola latina che è calculus, che per l'appunto significa sassolino. Comprova questo anche il fatto di avere i calcoli, che so, la cisticella, sì, no? Ma perché i sassi si usavano per calcolare proprio, no? Esattamente, si usavano, sì, tipo abaco, per capirci. Di corrispondenza biunivoca, uno a uno, se devo tenere traccia di quello che ho intorno mi posso servire delle dita, oppure se ho grandi quantità di cui dover tenere traccia a mente, mi servo dei sassi, un sasso per ognuna delle cose di cui mi devo ricordare. Allegato. Quindi, o attachment? Beh, qui appunto diventa una questione di scelta. Diciamo che la lingua, la nostra lingua, ci dà allegato, termine italianissimo, ce lo dà a disposizione, quindi potremmo non ricorrere ad attachment e al suo derivato attacciare. Entriamo in quella serie di termini che hanno appunto proliferato, termini italiani formati a partire da modelli inglesi. Poi la scelta a ciascuno di noi, l'importante è che non siano delle scelte per principio, perché è vero che non è bello prendere sistematicamente in prestito termini da un'altra lingua, quando la propria ha a disposizione degli equivalenti, però non è bello neppure il contrario, tradurre sistematicamente, altrimenti oggi noi parleremo delle palle del topo. Sì, certo, si sostituisce la palla del topo come fanno i francesi quando devono mettere a posto il mouse, che loro chiamano, sì, rat proprio, che è topo. E senti, quindi tu preferisci un file compresso al file zippato? Sì, però appunto non tradurrei mai file con scheda, come del resto non farebbe la maggior parte degli italiani. E poi se facessimo una traduzione sistematica, lo stesso dovrebbe valere anche per lingue come il latino, che per carità il latino è antecedente dell'italiano, ma molta parte del latino per noi comunque è oscura, perché non tutti i termini italiani sono di provenienza latina, o perlomeno non sono di provenienza dello stesso strato del latino. Insomma, vi faccio un esempio, sempre rimanendo nell'ambito del topo: se dovessimo tradurre sistematicamente tutto, il muscolo del braccio, della gamba, lo dovremmo chiamare topino, perché appunto arriva da lì. Topo, esattamente, era un topo. Ma da questo ci siamo salvati, perché i primissimi manuali tradotti in italiano relativi ai computer traducevano con, al posto di floppy disk, disco floscio, e grazie al cielo a un certo punto si è preferito rimanere col floppy disk. Grazie Francesca Dragotto, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Per quanto riguarda i giochi e i videogiochi, gli anni 90 hanno fatto storia e hanno insegnato a tanti altri a fare determinati giochi, a inventare anche determinate regole. Andrea Ligabue, il nostro ludologo, comincia con la sua storia. Ciao Andrea. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Sì, gli anni 90 sono anni senz'altro importanti, oserei dire fondamentali nella storia del gioco moderno. Innanzitutto, diciamo, sono gli anni in cui è stato pubblicato Magic the Gathering, che è un gioco che tuttora vende tantissimo, è arrivato nelle edicole, è arrivato nelle scuole, è arrivato, diciamo, un po' ovunque, ha dato via a quel fenomeno che sono i giochi di carte collezionabili. Magic è stato il primo ed è tuttora il più interessante, il più venduto, e da Magic, diciamo, hanno tratto ispirazione tantissimi giochi, non solo di carte collezionabili, ma anche giochi da tavolo, giochi di ruolo, quindi diciamo un momento veramente importante nella storia del gioco. Altri, gli anni 90 sono anche gli anni dell'esplosione di quelli che, diciamo, a livello internazionale vengono chiamati gli Eurogame, cioè i giochi europei, e che noi in Italia chiamiamo i giochi alla tedesca. Negli anni 90 è uscito Coloni di Catan, che ha avuto un successo anche questo mondiale, con anche versioni per tablet, per computer, tantissime edizioni, e che diciamo ha dato il via a quella cultura di gioco in famiglia, cioè quindi giochi che di una durata di un'oretta, con dei regolamenti intelligenti e delle profondità strategiche a volte anche notevoli, che possono essere giocati sia dai bambini che dagli adulti, in generale dalla famiglia, in un dopo cena, in un momento di relax. Ecco, ma cosa sono i differenti giochi alla tedesca dai giochi da tavolo ai quali eravamo abituati? No, allora diciamo la differenza di questa cultura dei giochi alla tedesca sono giochi in cui l'aspetto aleatorio è marginale, cioè quindi diciamo non c'è un'influenza della fortuna tantissima, i regolamenti sono molto semplici, ma i giochi hanno degli aspetti strategici, quindi diciamo rispetto a un Cluedo, Monopoli, che vengono più da una cultura americana in cui il dado fa un po' da padrone, ad esempio in Colonia di Catan c'è sì il tiro del dado, ma la fortuna non è così determinante, contano di più le scelte, l'interazione tra i giocatori, lo sviluppo delle strategie. Ecco, quindi sono più interessanti da diversi punti di vista. Esatto. Ecco, poi scusami, no, stavo forse anticipando, nel senso che ci sono anche negli anni 90 c'è l'esplosione di un tipo, chiamiamolo di gioco, che in realtà era un misto fra un gioco e la lettura. Esatto, diciamo, seppur i primi romanzi, i primi libri game appaiono verso già metà fine degli anni 80, il vero boom della cultura dei libro game si ha negli anni 90, oltre alla famosissima saga di Lupo Solitario ne sono usciti tantissimi, ed erano diciamo giochi che mischiavano l'aspetto della lettura, il libro con il gioco, cioè erano dei libri a scelte multiple, con anche dei rudimenti di giochi di ruolo dentro, perché poi un giocatore aveva un personaggio con delle caratteristiche e queste caratteristiche influenzavano la storia. Volevo parlare dei libri games perché è una curiosità, perché proprio in questi giorni è uscito un nuovo formato di libri games che sono diciamo i fumetti gioco, e riprendono quello che era l'idea del libro game, quindi una storia a scelte multiple, però la storia non è scritta in maniera romanzata ma è un fumetto, e il bello è che le scelte sono nascoste dentro le immagini del fumetto, cioè uno esplorando una scena vede un numero ad esempio sotto una pianta o lungo un sentiero che indica a che pagina deve andare se segue quel numero lì. Il fumetto in questione, diciamo, che è uscito proprio in questi giorni, si chiama Pirati ed è edito in Italia dalla Cranio Creation, e vi consiglio di leggerlo e di gustarlo perché è veramente divertente. In alcuni pezzi, momenti anche difficili trovare i numeri giusti, le scelte giuste all'interno del disegno. Anche perché possono sfuggire, cioè se non si osserva attentamente sfugge, non so, quella strada, quel sentiero, e quindi uno non la vede come nella realtà, insomma, se uno non si accorge di un posto dove andare automaticamente non lo troverà, e quindi sarà più difficile arrivare alla conclusione della storia. Grazie Andrea Ligabue, vi ricordo il suo blog che è ludologo.com. Alla prossima domenica, ciao. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Emilio Cozzi, buona domenica. Buona domenica Stefano, buongiorno. Allora, anche i videogiochi negli anni 90 cominciano la loro esplosione. Hai assolutamente ragione, per quanto, permettimi una licenza alla Mr. World di Pulp Fiction, in questo caso l'intervento su videogiochi anni 90 dovresti farlo tu, visto che se io penso a videogiochi anni 90 la prima cosa che mi viene in mente in Italia è USA Today, e se non sbaglio qualche vecchia conoscenza ci accomuna in quel caso. Sì, è vero, fui il primo a portare i videogiochi in televisione, avendo diretto tante riviste prima, e poi cominciò USA Today, poi sbarcai su Italia 1. È vero. Esatto. Comunque, ecco, le cose in quegli anni, come dicevi tu, sono davvero esplose dal punto di vista videoludico. Ricordo, non so, l'ingresso al mercato di Sega Mega Drive, di Super Nintendo, console portatili come Game Gear e Game Boy, che erano veramente, hanno raggiunto una diffusione massiva. Tutto il mondo ha cominciato a videogiocare. Addirittura, quando arrivò la quinta generazione di console, cioè la PlayStation, il mondo confuse, questo per dire dell'impatto anche mediatico e anche sulla cultura collettiva del videogioco, confuse il videogioco con il nome della console di Sony. Quindi ecco, in quel momento il videogioco entra davvero nell'immaginario collettivo, e giochi come Final Fantasy, Dragon Quest o addirittura la Legend of Zelda nascono allora, e tuttora hanno milioni di fan e accaniti che non vedono l'ora di giocare al prossimo capitolo. C'è talmente tanta roba che io ne vorrei nominare una sola, perché è estremamente attuale, nonostante appunto arrivi da lì. Cioè, vediamo se te la ricordi, la realtà virtuale. Tu ho scritto anche un libro su questo argomento, che che è fermo agli anni 90, perché poi non, tra virgolette, non si sviluppò più in quel modo, no? Quindi è fermo non lì. Si sviluppò più in quel modo, ma attenzione, c'è una grossa novità, vale a dire pochi giorni fa si è conclusa la E3, la fiera videoludica più importante del mondo a Los Angeles, ebbene sono tutti i critici, i consumatori, i buyer, sono stati tutti d'accordo nel conferire il premio dell'ideale trionfatore della fiera all'Oculus Rift. Che cos'è l'Oculus Rift? L'Oculus Rift è un hardware, è un sistema indossabile, chiamiamolo un paio di occhiali, anche se poi li stiamo banalizzando, che permette di immergersi in una realtà virtuale tridimensionale con pare effetti mai di verosimiglianza e di immersività appunto mai visti prima. È una console finanziata attraverso Kickstarter, la produce un'azienda che si chiama Oculus VR, la sta producendo un'azienda che si chiama Oculus VR, che su Kickstarter aveva un budget che è stato quintuplicato, hanno raccolto quasi 3 milioni di dollari, uscirà, si dice, entro la fine dell'anno, e davvero chi l'ha provata dice che per la prima volta la realtà virtuale è realtà. Scusate il gioco di parole, ma è esattamente sicuramente così. Un po' come l'anno scorso uscì un libro che il New York Times criticò molto bene, Ready Player One si chiama in Italia, tradotto da ISBN, diceva delle cose che sembravano futuro, in realtà in 12 mesi, come dire, stanno concretizzandosi. Ecco, noi saremo tra i primi a provare sicuramente la nuova realtà virtuale. Grazie Emilio Cozzi, buona domenica, ciao. Grazie a voi, buona domenica, ciao. Le suggestioni del gastronauta. Il nostro Davide Paolini, il nostro gastronauta, è pronto a darci le sue suggestioni. Ciao Davide. Buona domenica dal gastronauta. Bene, la prima suggestione ve la do ad Amelia, in provincia di La Spezia, dove c'è una grande novità, diciamo, sul panorama della ristorazione italiana, perché nella notissima locanda dell'Angelo, che fu appunto di Angelo Paracucchi, si è spostato un ristoratore che era a pochi metri, per quasi meno di un chilometro, le Tamerici di Mauro Ricciardi, e quindi ora è Mauro Ricciardi nella locanda dell'Angelo. Bene, ha trasferito, diciamo, il suo locale, però non ha trasferito la sua cucina, che rimane la cucina, non dimentichiamo, stellata, una cucina fatta di grande attenzione sulle materie prime, di piatti complessi, non semplici, insomma, tanto per capirci, siamo sul mare o quasi sul mare, ma non si mangia spaghetti allo scoglio. Qui si mangiano spaghetti, ad esempio, affumicati, cioè dire con pancetta affumicata e con astice. Quindi, insomma, diciamo che siamo molto sulla diversità. Poi si mangiano spannocchi sicuramente come antipasto, fatti in maniera diversa, in gazzetto anche con caprino. Si mangiano tagliolini in bianco di pesce e anche nei secondi, a cominciare da un cefalo allo zafferano, davvero molto molto molto interessante. Poi ovviamente la carta è assai vasta, però come dicevo la cucina è molto ma molto elaborata. Lo ripeto, Mauro Ricciardi alla locanda dell'Angelo in quella di Amelia. Bene, la seconda suggestione arriva da Firenze e riguarda un locale molto noto che si chiama Il Cibreo, però non vi voglio parlare del ristorante Il Cibreo, neppure della trattoria Il Cibreo e neppure del teatro del sale che è sempre del Cibreo, ma del bar del Cibreo, che è di fronte e ormai io l'ho definita Cibreo Square, quel posto lì, perché è tutto monopolizzato da Fabio Picchi. Sì. E lì ovviamente al bar si mangia una cucina molto molto più semplice, però si mangia all'aperto. Devo dire che ho mangiato dei tagliolini al pomodoro, ma molto con un pomodoro, diciamo un sugo di pomodoro molto elaborato, con pomodori che arrivano da diverse provenienze, una carne di mucca, come la chiama lui, fatta alla moda di mia madre, insomma, però veramente molto ma molto gustosa, e quindi si possono assaggiare diversi anche antipasti e anche dei contorni, a cominciare da un ottimo purè di patate. Come dicevo, è una cucina molto più semplice di quella di solito che si mangia al Cibreo, che è un po' un'istituzione fiorentina. E l'ultima suggestione di cui voglio parlare, dimenticavo, al Cibreo ho assaggiato, al Cibreo Bar del Cibreo, un interessante vino che consiglio per l'estate, è un pino nero vinificato in bianco di un'azienda toscana, appunto, che si chiama, diciamo che il produttore è un architetto fiorentino, l'azienda appunto è sul Mugello, e io consiglio questo pino nero vinificato in bianco, perché lo ritengo un vino dell'estate, diciamo molto, molto freddo. Servito freddo può accompagnare anche dei piatti di pesce. Dicevo l'ultima suggestione importante riguarda diciamo quello che è partito ieri nella trasmissione del Gastronauta, che è questo Personal Chef, che è un concorso in cui potete mandare delle ricette a base pomodoro, perché il primo ingrediente, a gastronauta@radio24.it e potete concorrere appunto a un gioco molto divertente, perché verranno scelte già sabato 4 ricette che verranno esaminate da un grande chef. Datevi da fare, perché potete partecipare in trasmissione direttamente, sarete citati, potrete chiedere consigli. Non vi svelo il nome del primo chef che parteciperà con me, che assieme a me appunto darà un giudizio su queste ricette. Ma lo scoprirete sabato. Non mi rimane che augurarvi buona domenica. Grazie Davide, ciao, a domenica prossima. A presto. Manè in 24 minuti. Per voi biglietti per andare a Palazzo Ducale a Venezia fino al 18 agosto, infatti Manè, Ritorno a Venezia, questa straordinaria mostra in collaborazione col Museo d'Orsay di Parigi. E per cercare di riuscire a portare a casa i biglietti dovete associare il titolo della canzone o il contenuto della canzone che vi faccio ascoltare al titolo di una delle opere di Manè. Io vi aiuterò per quanto possibile e il numero per partecipare è 800240024. Ecco il primo indizio. Patrizia, buona domenica. Ciao. Allora, non sono preparatissima. Vabbè, Patrizia, guarda, c'è nel testo di questa canzone è nascosto il titolo dell'opera di Manet. Tu però ci devi aggiungere una cosa perché sia proprio il titolo giusto. Quale potrebbe essere? Ecco, il carnevale non è, perché l'abbiamo già detto settimana scorsa, e il carnevale non è. Ma è un'altra cosa che cita proprio Caterina Caselli all'inizio della canzone, Nel testo proprio, lei dice... finisce qui, non dico che cosa perché sennò ti dico il titolo del quadro. Non lo so, provo a indovinare così a caso, ma non la so. Prova. Il pifferaio. E non è il pifferaio, mi dispiace. Ciao Patrizia, grazie però. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Annalisa da Reggio Emilia. Pronto, ciao. Ciao Annalisa. Ciao. Dai che è facile, sì, però... È facile, non tanto. Non tanto, vediamo perché non è facile. Dai. Non è facile perché le opere sono tante. Questo è vero, però insomma io ho detto che questa canzone inizia proprio con il titolo dell'opera di Manet. Però bisogna aggiungerci una piccola cosa, ma vi aiuterò ad aggiungere quella cosa lì. Vabbè, io provo ad indovinare. Sì. Allora, un'opera che secondo me ha un'analogia col carnevale Venezia è Il balcone di Manet. No, tra l'altro il balcone di Manet era di un altro autore. No, l'avevamo già messo, era già tra le opere, avevo fatto ascoltare in quel caso, mi ricordo, Romeo e Juliet, perché capito, appunto il balcone. Ho capito. Ma non è quello, Annalisa, mi dispiace. Grazie. Ciao, grazie a te, ciao. Ma io dico, è anche facile, perché nella canzone, nell'ascolto che mi ha fatto ascoltare, c'è proprio il titolo. Simona, da Piacenza. Buongiorno a tutti. Ciao Simona, allora. Ci provo? Ci proviamo, va, dai. Il ballo, ballo mascherato all'opera. Grazie dell'aiuto. Il ballo in maschera, perché la canzone dice il ballo in maschera finisce qui, ecco. All'opera era da aggiungere, però insomma... Il teatro per eccellenza di Parigi. Quello è per te i biglietti per andare a Palazzo Ducale, è un bel modo per tornare a Venezia e ritornare anche. Come è tornato Manè, torni anche tu per vedere la mostra. Ciao, grazie, Simona, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Beatrice da Udine, ciao Beatrice. Ciao. Dimmi che ti hanno fregato la risposta. Mi hanno fregato veramente la risposta, proprio l'ultima. Allora io ti aiuterò con questa nuova canzone, un'altra opera, ma ti garantisco che è molto facile. Ascolta bene. Lei non sa e parte di lei, che parte di me. Verissimo, davvero Renga con Angelo, questa è la canzone. Beatrice da Udine, ciao Beatrice. Ciao, non lo so, io provo. Aspetta, ti sto per aiutare se grazie. Vuoi, se invece non vuoi essere aiutata. No, nel senso che il titolo di quest'opera rimane è una parola soltanto, ma non è Angelo, diciamo subito, non è Angelo. Però Renga ha scritto questa canzone quando è nata la figlia, no? Ecco. Sì. Quindi devi pensare a un angelo, devi pensare a una donna, e quindi il titolo potrebbe essere... È un nome, dai, ti dico. È un nome. Mm-hmm. È un nome proprio. Vediamo. Sa cosa sta scartabellando? Internet. È un nome. Che nome sarà? È difficile. Guarda, devo dirti che è proprio un nome difficilissimo. Se tu hai sentito la canzone di prima, il nome, cioè, voglio dire, è lì, È nella canzone. Sì, è quella che hai sentito prima. Che titolo aveva la canzone di prima? Angelo. Allora, il nome quale potrebbe essere? Angela. Non è Angela. Sarebbe stato troppo facile. Ciao, grazie Beatrice. Che rabbia. Elena da Brescia, ciao Elena, buongiorno. Buona domenica. Anche a te. Allora, adesso abbiamo detto tutto, manca la risposta giusta, ma ce la darai tu sicuramente. Ce la dai? Sì. Non lo so, speriamo. Non lo so. Vai, prova. Allora, ma... ha a che fare con Angelo, hai detto il nome di donna. Va bene. Accidenti. Io provo, ma non credo. Olimpia. Non è Olimpia. Grazie Elena, mi dispiace. Grazie a ciao, grazie. Che tra l'altro è già stata la risposta qualche settimana fa. Anna Laura da Brescia, ciao Anna Laura. Buongiorno a tutti. Buongiorno secondo a te. Secondo me l'opera si intitola Angelina. Angelina. Non era proprio Angelo, era Angelina. Ho detto, insomma, è dedicato alla figlia. La figlia è piccolina, una donna, Angelina. Insomma, ci si poteva arrivare, non era così difficile, assolutamente no. Grazie Anna Laura, buona giornata. Per te i biglietti per la mostra Palazzo Ducale di Manet fino al 18 agosto. Io adesso vi faccio ascoltare un pezzetto della canzone che vi servirà per giocare la settimana prossima. La pioggia. Ancora col sole tu vedi, chi nasce chi muore per te. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te. L'avete riconosciuto sicuramente, Little Tony, questa era La spada nel cuore, e questa canzone aiuterà a trovare la risposta per la settimana prossima, per Manè in 24 minuti. Grazie a Giuseppe De Luca, redazione, Benedetta Acrin in assistenza, Peter Bescapè in regia, e a voi, buona settimana, da Stefano Gallarini. Oh!